I clan chiedevano il pizzo alle aziende. 12 persone sono state fermate dai carabinieri di Reggio Calabria. Si tratta di presunti affiliati al clan Nasone Gaietti di Scilla. Secondo l'accusa, prendevano il 3% del valore degli appalti dalle ditte che lavoravano nei cantieri della 3. I fermati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall'aver favorito un sodalizio mafioso. Le indagini hanno documentato l'infiltrazione della cosca negli apparati per la realizzazione del sesto macrolotto dell'autostrada Salerno-Reggio. Avrebbero imposto infatti il pagamento della succitata tangente pari al 3% del valore prestabilito del lavoro e per farlo avrebbero fatto messo in atto una serie di danneggiamenti ai danni delle stesse aziende. Le indagini infatti sono cominciate lo scorso anno dopo l'arresto di Giuseppe Fulco, 41 anni, ritenuto legato alla cosca e bloccato in flagranza di reato per un'estorsione. Pensate un po'. L'uomo aveva chiesto ad un imprenditore che stava effettuando per conto dell'ANAS i lavori di consolidamento di costoni rocciosi vicino al centro abitato di Scilla, Scilla e la frazione Favazzina il pagamento di una mazzetta di 6.000 euro, pari appunto al circa il 3% di qui sopra. Le indagini, secondo i carabinieri, hanno permesso di accertare che la cosca aveva preso di mira anche le ditte impegnate sulla 3. Nell'ambito di un'operazione sono stati infatti sequestrati beni per alcuni milioni di euro. La richiesta è la riscossione del pizzo da parte della cosca Nasone Gaietti era sistematica. Infatti le pressioni delle ditte, sulle ditte impegnate nei lavori al tratto di riferiti a quel loro tratto di competenza, tra virgolette, la professionalità di queste organizzazioni venivano sollecitati attraverso infatti incendi, danneggiamenti e vari altri atti intimidatori. Infatti questo era il prezzo per pagare la protezione territoriale della 'Ndrangheta nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Questa era infatti la legge, cioè sollecitare attraverso reiterate azioni di danneggiamento ed intimidazioni a riscuotere la quota per le estorsioni. Per quanto riguarda le estorsioni contestate, il danneggiamento dei mezzi di lavoro e il segnale lanciato alla consorteria criminale, alla ditta appaltatrice. La conoscenza precisa dei luoghi e della realtà lavorative delle ditte impegnate era talvolta favorita dall'assunzione nelle stesse delle ditte di accoliti che diventavano veri e propri collegamenti criminali con i collegamenti criminali di riferimento. Nel caso in cui, questo è per creare un'occupazione chiaramente, nel caso in cui il segnale non veniva immediatamente recepito, veniva attuata una serie di intimidazioni fino a raggiungere gli obiettivi desiderati. Tale escalation, affermano gli inquirenti, è sempre pianificata, concepita e metodicamente realizzata. Nessuno poteva interferire con gli interessi della cosca. Emblematico infatti fu il caso di una piccola attività commerciale scillese che nella notte tra il 18 e il 19 febbraio scorso ha subito l'incendio dell'esercizio commerciale ubicato nel porticciolo turistico di Scilla per aver chiesto al comune di Scilla una nuova concessione in un'area del porto di interesse della cosca. Questa era una notizia sulla nostra carissima 3 e detto questo passo la parola al nostro diretto e conciso e chiaro nuovo Luca di questa puntata. Si hanno documentato l'infiltrazione della cosca, ripetiamo, Nasone Gaietti di Scilla, negli appalti per la realizzazione del sesto macrolotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e avrebbero imposto il pagamento di una tangente pari al 3% del valore dell'appalto alle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e per farlo avrebbero messo in atto una serie di danneggiamenti ai danni delle stesse aziende. Le indagini sono cominciate lo scorso anno dopo l'arresto di Giuseppe Fulco, 41 anni, ritenuto legato alla cosca e bloccato in flagranza di reato per estorsione. Infatti l'uomo aveva chiesto ad un imprenditore che stava effettuando per conto dell'ANAS i lavori di consolidamento dei costoni rocciosi sulla statale 18 tra il centro abitato di Scilla e la frazione Favazzina il pagamento di una mazzetta di 6.000 euro, pari a circa il 3% del valore dell'appalto. Le indagini, secondo i carabinieri, hanno permesso di accertare che la cosca aveva preso di mira anche le ditte impegnate sull'A3. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati beni per alcuni milioni di euro. La richiesta di riscossione del pizzo da parte della cosca Nasone Gaietti di Scilla era sistematica, così almeno scrivono gli inquirenti. Le pressioni sulla ditte, impegnate nei lavori riferiti al tratto di competenza del clan, erano esercitate attraverso danneggiamenti, incendi e vari altri atti intimidatori all'interno dei cantieri. La cosca, in quanto proiezione territoriale dell'Andrangheta nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, era legittimata dagli altri clan a sollecitare, attraverso reiterate azioni di danneggiamento ed intimidazioni, a riscuotere una quota dei proventi delle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento dell'autostrada. Per quanto riguarda le estorsioni contestate, il danneggiamento dei mezzi di lavoro è il segnale lanciato alla consorteria criminale, alla ditta appaltatrice. E addirittura apprendiamo come le ditte erano costrette in qualche misura ad assumere degli adepti alla cosca, che diventavano veri e propri collegamenti con i criminali di riferimento. Nel caso in cui il segnale non veniva immediatamente recepito, veniva attuata una serie di intimidazioni fino a raggiungere gli obiettivi desiderati. Come dire, un piccolo modo, una serie di piccoli regali. Tale escalation, affermano gli inquirenti, è sempre pianificata, concepita e metodicamente realizzata, e nessuno poteva interferire con gli interessi della cosca. Emblematico il caso di una piccola attività commerciale di Scilla, che nella notte tra il 18 e il 19 febbraio scorso ha subito l'incendio dell'esercizio commerciale ubicato nel porticciolo turistico appunto del comune, per aver chiesto all'istituto comunale una nuova concessione in un'area del porto di interesse della cosca. E passiamo subito alla seconda notizia. Ci trasferiamo dal Tirreno allo Ionio, ma a quanto pare il malcostume rimane lo stesso. Depuratore di Mandatoriccio, sequestrati 200 metri di cubi di fanghi. La capitaneria di porto di Coriano Calabro, su disposizione del tribunale di Rossano, che tra l'altro dovrebbe chiudere assieme a quello, se non erro, di Lamezia, ha posto i sigilli a circa 200 metri cubi di fanghi di depurazione che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati smaltiti regolarmente. Gli uomini della capitaneria di porto di Coriano Calabro hanno sequestrato, in esecuzione di un provvedimento del tribunale, circa 200 metri cubi di fanghi di depurazione prodotti nell'impianto del comune di Mandatoriccio, provincia di Cosenza, in località Armirò. Da verifiche tecniche ed accertamenti svolti dai militari della Guardia Costiera, in collaborazione con i tecnici dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della provincia, sarebbe emerso che i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione, appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali, insomma mica cotiche, non pericolosi, erano conservati in modo non idoneo. L'ultimo regolare smaltimento risulta risalente all'anno 2007. I responsabili sono stati denunciati per la violazione delle norme in materia di ambiente e tutela delle bellezze naturali e delle acque. Inconvenienti riscontrati dai militari della Guardia Costiera verranno eliminati dalla ditta che ha in gestione l'impianto per conto del comune. Dalle verifiche emerse ed effettuate nel solo compartimento marittimo di Coriano Calabro, si è trovato che in effetti 15 depuratori sono risultati sprovvisti di autorizzazione allo scarico, uno inattivo, e 12 sono risultati non conformi ai minimi tabellari e 4 hanno presentato gravi problemi di manutenzione. Ce ne va lista uno, insomma. Si fa rilevare ancora che in merito alla rete fognaria non sono state rilevate pompe di sollevamento malfunzionanti o inattive e condutture intassate o danneggiate. Complessivamente la Guardia Costiera di Corigliano ha riscontrato 11 illeciti penali, ma abbiamo una... No, ma il problema, se voi notate, scusate, questo è il mio, mi inserisco in questo senso per far notare il punto che il problema sono un po' anche le pompe, nel senso che è un problema importante, non so se... Cioè, questo intervento che mi sono sentito di fare, data la cosa, cioè nel senso... Matteo, tu cosa ne pensi? Io chiudo la prima parte della segna stampa e fingo di non aver sentito e lancio De André. Coda di lupo? Andiamo coda di lupo. Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. Sei veramente grezzo. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda, che trovammo mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso, e un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai. Prendiamo quindi il filo di discussione. Io avevo posto poi tra noi durante il pezzo, abbiamo parlato, voglio dire, la questione delle pompe in realtà era una questione che non è stata di secondaria importanza, cioè alla fine il resoconto è stato più o meno questo, se possiamo dire, insomma, cioè, però rimangono anime critiche per, o sbaglio, la questione delle pompe va ricondotta in un problema più generale di situazione calabrese. In questo senso era il mio appunto, non bisogna soffermarsi solo sulle pompe, ma bisogna avere un'osservazione ad ampio spettro sulla situazione calabrese, dei depuratori, delle discariche. Guarda, su questo punto siamo totalmente d'accordo. Comunque cerchiamo di ritornare un minimo seri e arriviamo a un'altra notizia che ci proviene questa volta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Irregolarità al parco eolico, la procura insiste, interdizione per i tecnici. impugnata la decisione con la quale il GIP ha respinto la richiesta di interdizione dei pubblici uffici di 13 persone indagate nell'inchiesta sulla costruzione del parco eolico di Borgia in provincia di Catanzaro. La Procura della Repubblica dunque ha impugnato la decisione con la quale il GIP Antonio Rizzuti ha respinto la richiesta di interdizione dei pubblici uffici di 13 persone indagate nell'inchiesta sulla costruzione dell'eolico a Borgia nel Catanzarese. Sarà il Tribunale della Libertà del Capoluogo adesso a decidere in merito al provvedimento del GIP, giunto nelle scorse settimane dopo che il sostituto procuratore Carlo Villani, titolare delle indagini sul parco eolico, aveva presentato la sua richiesta di interdire indagati lo scorso agosto. Si tratta in particolare di ex componenti del nucleo di valutazione di impatto ambientale della VIA della Regione Calabria e funzionari di enti locali coinvolti che, secondo le ipotesi d'accusa al vaglio della procura, avrebbero illecitamente dato parere favorevole alla realizzazione del parco nonostante il progetto presentasse delle irregolarità. E adesso arriviamo ad una notizia che giunge direttamente dal sito dell'ANSA, direttamente sulla questione nazionale, cioè a vedere ancora una volta la democraticità del nostro fantastico governo tecnico. Infatti il governo ha appena posto 4 questioni di fiducia sulla riforma del mercato del lavoro all'esame al Senato. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti col Parlamento Piero Giarda. Il DDL viene così spacchettato in altrettanti capitoli che dovrebbero riguardare la flessibilità in entrata, in uscita, ammortizzatori sociali e formazione. E vediamo un po' quello che ha detto il ministro dalle lacrime facili, la Fornero, che ha detto: la riforma del mercato del lavoro sta migliorata durante l'esame del Parlamento, ma ora le norme vanno interiorizzate o rischiano di restare lettera morta. Appunto, anche questo è un tema importante, quello dell'interiorizzare, cioè del mettere dentro, cioè portare dentro qualcosa. Cioè l'interiorizzazione in questo caso, mai come in questo caso, è veramente qualcosa di concreto, un portare dentro qualcosa, un mettere dentro. Ci stanno mettendo dentro queste norme sul lavoro, potremmo dire. E infatti la Fornero, tra l'altro dimostrando ancora una volta la democraticità del governo tecnico, ha detto che interverrà nell'aula e dovrà e sarà previsto da parte del governo il monitoraggio delle votazioni. Cioè, allora, sostanzialmente funzionerà così. Avete visto che ci sono i pulsanti per decidere sì o no? Ci sarà un delegato del governo tecnico che tirerà una bacchettata a ogni parlamentare che andrà sul no. Così funzionerà la votazione. Giusto questo per la democraticità. E poi dice: sull'articolo 18 è stato trovato un compromesso equilibrato rispetto a che cosa? E lo dice sempre il ministro Fornero intervenendo nell'aula del Senato, e dice anche in questo caso, osserva, non è stata usata l'accetto. In effetti no, è stata usata sia la gaccia che uvurpile fondamentalmente. E dunque, sulla riforma del lavoro siamo... Notate la nostra competenza di riguardo gli attrezzi, gli utensili, o no? Andiamo alla prossima notizia, caro il mio Matteo. Andiamo. E ritorniamo sulla questione locale e trasmettiamo una notizia che ci arriva direttamente dai nostri amici delle lampare di Cariati. Allora, la notizia, appunto, e ricambiamo i saluti perché loro ci stanno ascoltando e ci stanno salutando. Guarda Regina com'è in versione proprio radio DJ, quasi salutiamo e salutiamo i nostri ascoltatori. La nostra esperta di public relations. Da Cruculi a Trebisacce, la cronaca di un territorio derubato del diritto alla salute. Una donna di 65 anni, ieri, durante la processione della Madonna di Mani Puglia a Cruculi, a circa 15 km dall'istanza dell'ex ospedale cosentino di Cariati, è stata colta da un improvviso malore e si è cacciata a terra colpita da un arresto cardiaco. Sul posto sono presenti i medici che tentano invano di evitare il peggio. Nel frattempo qualcuno ha chiamato l'eli soccorso 118. All'arrivo però l'elicottero, e qui arriviamo al tragicomico, non riesce per diversi minuti ad individuare una zona su cui atterrare. Così il vento creato dalle pale fa letteralmente volare bancarelle e quant'altro. Qualcuno cade a terra e diversi commercianti hanno dovuto fare ricorso delle cure mediche, dalla padella alla brace, insomma. Sabato invece storto l'alto ionio cosentino, protagonista in negativo della cronaca, a causa appunto del devastante piano di rientro sanitario regionale che, nella sibaritide, ha imposto la chiusura dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce, un nome insomma più, e del Vittorio Cosentino di Cariati, sottoponendo così per effetto domino una perenne situazione di emergenza gli operatori del nosocomio di Rossano e di Coriano. Appunto, giornata drammatica, diciamo, nell'Alto Ionio. Addirittura 3 interventi di emergenza per gli autisti e per gli operatori del 118. Appunto, il bilancio conclusivo della giornata è stato quello di un morto, di un ferito grave e di un ricovero che, se fosse stato operativo il Chidichimo, cavolo di nomi, forse avrebbero potuto avere un bilancio meno funesto. In realtà non si è trattato di un solo incidente, ma di 3 diversi episodi che l'unica equipe del 118 ha dovuto gestire, correndo da un capo all'altro del territorio dell'ex ASL di Rossano. I fatti. intorno alle 12:15, mentre l'ambulanza si accingeva a trasportare una paziente colta da pancreatite acuta dal Chidichimo all'ospedale di Corigliano, arriva la chiamata per un incidente di moto verificatosi sul lungomare di Trebisacce. A questo punto 118, dando la precedenza all'incidente, scarica la malcapitata e corre sul lungomare in soccorso del Centauro. Un 46enne di Trebisacce che a bordo di una moto di grossa cilindrata, trovatasi all'improvviso la strada sbarrata da un furgone che effettuava una manovra di inversione, non ha fatto tempo a frenare ed è andato a sbattere violentemente contro il mezzo che ha occupato ormai tutta la carreggiata. Per fortuna il Centauro indossava il casco e la sua velocità non era neanche esagerata. Tuttavia però le condizioni, seppur non gravi, erano abbastanza serie. Necessario quindi il suo trasferimento a Rossano per trauma facciale e vari altri traumi agli arti. Da qui, secondo notizie attinte nel pomeriggio, il giovane è stato trasferito all'ospedale civile di Cosenza. Le sue condizioni appunto sono serie, ma per fortuna non gravi. Ma ecco che verso 1:15, mentre l'ambulanza era ancora a Rossano, ecco arrivare al 118 un'altra chiamata con un codice rosso da Rocca Imperiale, distante da Rossano oltre 80 km. Una 57enne di Trebisacce, mentre era al lavoro presso una azienda agricola, viene colta da infarto acuto. A questo punto l'ambulanza, sirene spiegate e a tutta velocità, corre verso Rocca Imperiale impiegando all'incirca 45 minuti. Purtroppo è troppo tardi, la donna è già morta e i sanitari non resta che constatare il decesso. Ogni commento a questo punto è superfluo, ormai nell'Alto Ionio la vita delle persone è appesa a un filo molto sottile. Lo ripetiamo con forza, è necessario rimettere la questione sanità al centro, ne va delle nostre vite. E infatti questo era un assaggio di quello che è la situazione soprattutto che colpisce la Calabria, e questo ci fa molto riflettere, soprattutto per questi due temi che hanno toccato, per questi temi, ma su questi temi poi stiamo anche lavorando insieme alle Lampare per costruire una manifestazione regionale che parli appunto di questo, ma poi vogliamo dedicare uno spazio completo al momento. Io direi che possiamo andare con un prossimo pezzaccio che vi farà muovere il sederino. Drive and every and he writes. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Bene, dunque, ritorniamo e passando dai hip hop cerchiamo di capire qualcosa da quanto sta emergendo, perché appunto l'università sembra in un rimescolamento, spacchettamento, facoltà, dipartimenti, si creano nuovi dipartimenti, le facoltà scompaiono. Scusa? No, perché stamattina mentre andavo a fare le fotocopie in, diciamo in presidenza, no? Allora i funzionari si chiedevano: ma noi che fine facciamo? Cioè, nel senso, non sappiamo che, e come ci chiediamo anche noi, no, dell'aula. Dici, ma se dobbiamo fare una richiesta, a chi ci dobbiamo rivolgere? Non si capisce niente, ragazzi. Chi ci vuole ci prende. E quindi in questo dramma, per cercare di trovare una luce in questo dramma esistenziale che coglie tutti quanti studenti, impiegati all'università che non sanno più a quale nome rivolgersi, lanciamo C'era una volta l'università. C'era una volta l'università, dove scorgava libero e felice tutto il sapere del mondo. Ma un brutto giorno baroni banchieri, rettori ordinari si nascosero in un cespuglietto nei pressi della fonte. E mentre il povero studente si apprestava ad abbeverarsi alla fonte del sapere, ministri, professori saltarono fuori e fecero un salboccone. C'era una volta l'università, la rubrica di approfondimento universitario che stavate aspettando. Prima di tutto i fatti. Ci sono, come leggiamo una notizia, rende, sono 9 direttori di dipartimento dell'Università della Calabria eletti al primo turno. A darne notizia è il comunicato dell'Unical. Al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra è stato eletto Gino Crisci, olè! A Farmacia le Scienze della Salute e della Nutrizione Sebastiano Andò, olè! A Fisica Riccardo Barberi, olè! Famosissimo, il cavello di vento. E poi ad informatica, modellistica e sistemistica per l'energia e per sistemistica per l'ingegneria Sergio Greco. Ole! In più ingegneria civile Paolo Veltri. Ole! Lingue scienze dell'educazione Francesco Altimario. Ole! Scienze aziendali giuridiche Franco Rubino. Ole! In più, scienze politiche e sociali, Pietro Fantozzi. Ole! Studi monumentistici, Raffaele Perrelli. Il grandissimo. Perrelli. Il quorum è stato raggiunto nei dipartimenti di chimica e tecnologie chimiche, ingegneria meccanica, energetica e gestionale, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria chimica. Per questi 3 dipartimenti, con le candidature che restano invariate, come da regolamento elettorale, sono già fissate le date del secondo turno, 22 maggio, chimica e tecnologie con... le votazioni dei dipartimenti di scienze economiche, statistiche, eccetera, eccetera, che ci saranno poi in seguito. Il punto è che, leggendo questi nomi per i quali noi abbiamo esultato, si rende palese il fatto che ci sono, piuttosto che rispecchiare le necessità, quelle che sono i bisogni della nostra offerta formativa, al contrario vengono privilegiate beghe di potere o quando non screzi personali, quindi cose assai lontane da quella che è la, come dire, una dinamica corretta del sapere libero. E in più questo ci fa pensare, mentre attorno a noi succedono un po' di danni, cose che, gente che inciampa, cose del genere, e in più questa cosa si rende palese in diverse situazioni, sia dal nostro caro una nostra vecchia conoscenza, il caro Pasquale Versace, che ha scelto di non candidarsi. Si è talmente arrabbiato con alcuni suoi colleghi, dopo alcune telefonate, alcune cose, che ha deciso di non candidarsi e quindi quasi quasi ha minacciato di cambiare dipartimento, con una lettera mandata ai suoi colleghi. Questo ci fa capire diverse cose, se pensiamo anche che all'effetto Perrelli, che l'abbiamo lanciato e applaudito e esultato come se fosse il prossimo Cesare che andrà a sostituire il caro La Torre, che appunto, vuol dire, è una dinamica molto, molto strana. Lui aveva proposto un dipartimento a 151, 151 docenti ordinari, e dopo... il senato accademico non gliel'ha approvato, ci sono anche per contrasti interni che hanno portato alla spartizione in due dipartimenti. Nonostante il dipartimento di studi umanistici sia quello più grosso dell'università, che costa di 112 ordinari, si è venuto a creare una frazione con il professor Altimari, che adesso capitaneggia il Dipartimento di Studi Linguistici e Educazione, Scienze dell'Educazione. Questo ci fa pensare anche il fatto che entrambi hanno avuto delle percentuali bulgare, nel senso che ci sono state 52 votanti su 54, più per quanto riguarda Altimari. Invece Perrelli? No, Perrelli ci sono state una percentuale di votazioni vicina al 99,9 periodico, 110 voti per Perrelli su 114 votanti. E poi, visto che voi siete di ingegneria, quindi magari non siete più attento alle questioni di lettere, in un successivo consiglio di facoltà si è deciso di mandare due voti contrari in un progetto di ricerca a Novosibirsk in Russia, e di mettere delle immagini del caro leader all'ingresso, giusto per festeggiare la permanenza di Perrelli all'interno dell'università. Eh sì, che Perrelli è sempre stato con questa vena un po', come dire, un po' autoritaria, insomma, con questo, come dire, questo suo amore per le manovrette. Ma la cosa più importante è un'altra, è che all'interno di questo ricambio ci stanno giocando, già adesso è iniziata la campagna elettorale per le prossime elezioni del rettore. Non fosse altro che questa spartizione è stata fatta per togliere potere a chi comunque cercava di essere di lanciare un'opa verso la presidenza del consiglio di amministrazione, e nel frattempo sono state tenute fuori, ampiamente fuori, quelle che sono state tutte quante le istanze che riguardano, come dire, lo studio e l'offerta formativa. Questo è una cosa che ci sentiamo, nonostante il come dire, ci siano diverse cose che lo riprovino. Pensi che Altimari era prorettore ed era anche come dire, un rampollo del rettore. Questo significa che dietro la scissione o l'aggregazione di varie, come dire, delle varie organi universitari, c'è ben poco che abbia a che fare con quelle che sono le esigenze del sapere del territorio, le esigenze del sapere dei giovani calabresi, come dire, anche nonostante tutto la questione dell'occupazione. Insomma, questo tipo di ragionamenti, abbiamo capito, considerato anche le facce nuove come Barberio, come altri che andiamo a vedere, sono stati la conseguenza di come dire, le scelte, le orribili scelte fatte dal nazionale. In questo io chiuderei e lancerei un pezzaccio che abbiamo scelto in Lo Spettacolo. Yeah. Qua ritorniamo con la nostra banda armata. Ciao a tutti, sono Regina e sono qui per parlarvi di terremoti. Terremoti, però in questo caso non parliamo dei terremoti che si stanno diciamo così verificando in Italia. Parleremo di un altro tipo di terremoto intitolato Acqua Sporca. Quanto pare c'è stato finalmente il sequestro della diga dell'Alaco, che si trova ai confini tra Catanzaro e Vibo. Quindi parliamo dell'ennesimo gestione dei servizi pubblici in Calabria, però non tanto gestione ma non gestione dei servizi pubblici in Calabria. Giovedì la Procura della Repubblica di Vibo ha ordinato il sequestro dell'invaso, quindi di questa diga al confine con la provincia di Catanzaro. E a quanto pare questa diga era molto importante per la popolazione, perché riforniva i rubinetti delle case di circa 400.000 persone. A quanto pare, però, questo fornimento di acque non era molto, molto lecito e pulito, perché nel mirino degli indagati ci sono andati ben 26 persone, tra cui il neo eletto sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, nonché presidente della Sorical. Olle! Ecco qua, società che gestisce, ricordiamo, l'acqua calabrese a braccetto con la multinazionale Veolia, che a quanto pare se l'ha data alle gambe, no? Ultimamente. Eh sì, un po' se la palleggia la cara. Ecco, vabbè, quindi ci sono vari indagati, 26, tra cui anche il primo cittadino, gli ultimi, i primi cittadini, l'attuale Nicola, di cittadini di Vibo Valentia, stiamo parlando, Nicola D'Agostino, e per il predecessore Francesco San Marco. Il reato è quello di avvelenamento colposo di acque e frode in pubbliche forniture in concorso con alcuni dirigenti della Sorical. Altri soggetti, diciamo, che hanno avuto l'avviso di garanzia sono persone appartenenti a aziende sanitarie provinciali, dirigenti regionali dell'ARPACAL, insomma, più ce n'è, più... Chi più ne ha, piatto ricco, micificco. Bravissimo, Samuele. Insomma, ci sembra ovviamente, dopo il referendum, tutte le persone si sono espresse, no? Quindi per l'acqua pubblica, a quanto pare la regione ancora si sbatte e lavora nell'ombra per affidare l'acqua ad un unico soggetto privato, no? Quindi ancora nelle mani dei privati. Questa è la democrazia. Eh sì, la privatizzazione, più si privatizza più si democratizza, no? Anche se questo privato ancora non c'è in Calabria, però lo stiamo cercando. Chi? C'è stato pure un referendum che ha parlato di privatizzazione dell'acqua e ha appoggiato la privatizzazione dell'acqua, no? E appunto, come stavamo dicendo, la questione del referendum è importante anche alla luce di quello che avviene con sia nel caso della Veolia con l'acqua, ma anche con la TEC, in cui c'è la Veolia stessa, nei rifiuti, e che questi servizi del pubblico li gestiscono i privati e fanno l'interesse dei privati e il peggio per il pubblico. Perciò è importante pubblicizzare, ripubblicizzare e avere il controllo popolare di questi servizi, che deve essere della comunità, onore. Certo. Per quanto riguarda, a proposito di servizi, no? Ci colleghiamo alla tematica delle grandi opere, per esempio, no? Pubbliche, quelle progettate. Il ponte. Tipo il ponte. No, ho fatto una piccola ricerca per quanto riguarda, ecco, le dighe, che a quanto pare non riscuotono una grande fortuna in Calabria, no? Ma come il ponte, tra l'altro. Allora, per esempio, basti pensare a quella del Melito, si trova a Catanzaro, a Gimigliano, che è la più grande opera mai realizzata in Calabria, cominciata nel lontano 1978, 33 anni, gli anni di Cristo e passa. Bellezza, 78. C'era pure Aldo Moro a Gimigliano. A quanto pare quest'opera, no, è enorme, 108 metri d'altezza, una capacità fino a 100 milioni di metri cubi d'acqua, è appunto cominciata con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, è diventata un'eterna incompiuta. Olle per la Cassa del Mezzogiorno! Ma non finisce qui, perché un anno dopo, nel 1979, un altro invaso del fiume Menta vanta un costo iniziale di 65 miliardi e prevede la realizzazione di un bacino di 18 milioni di metri cubi e di altri tre bacini sui torrenti Amendola, Ferraina, e da qui l'acqua, grazie ad una condotta, diciamo, sotterranea di 7,5 km, doveva giungere all'invaso principale. Scopo dell'operazione era solo in parte la soluzione della grande sete di Reggio Calabria, determinata da una rete idrica che perde il 50% dell'acqua immessa nelle tubazioni. Il 33% dell'acqua raccolta doveva avere non meglio precisati usi industriali, non si capisce, tra i quali l'alimentazione di una centrale idroelettrica, costo previsto di 120 miliardi. Nell'85 iniziano i lavori. piovono le intimidazioni e i costi schizzano a 210 miliardi. Poi lievitano a 300 e passa. L'intera area è diventata parte, diciamo, del parco dell'Aspromonte. Il bacino del fiume Soleo è indicato dall'Unione Europea come bene di alto valore ambientale, ma corre seri rischi di sopravvivenza. Il Soleo subisce una captazione a pochi chilometri, diciamo, dalla fonte, che lo costringe per lunghi periodi alla secca. Dall'81, a quanto pare, le mani in pasto le ha cercato di mettere anche l'Enel. Tenta di utilizzare le acque di questo fiume per fini idrologici. Il progetto, approvato dalla Regione Calabria nel 86, è stato bloccato dal comune di Petilia Policastro, meno male, che non ha rilasciato la necessaria concessione edilizia. L'Enel però ci riprova a sua volta più in là con gli anni, nel 93, a sua volta, diciamo, viene bloccato dai beni culturali, dal Ministero dei Beni Culturali, e 94, e tuttora continua l'Enel a specularci sopra. Ricordiamo che l'Enel è questa grande società che cerca di improsarci le centrali a carbone. E non solo, insomma, è questa società che tanto di bene ha voluto fare alla nostra Calabria, tanto si è interessata veramente tanto, parliamo dell'apertura e non solo, ma c'è davvero tanto a parlare, tante cose da dire sull'Enel, però non basterebbe una trasmissione sola. Quanti intrighi sulle opere pubbliche, quanti intrighi. Andiamo avanti, un'altra diga non mai realizzata è quella che è progettata, quella dell'Esaro. Non sono bastati 30 anni di lavori per completare la realizzazione di una diga in Calabria, a Sant'Agata di Esaro, provincia di Cosenza. Mentre la spesa prevista è cresciuta a dismisura, rimane una delle tante opere incompiute in Italia. Dal 81 cominciarono i lavori per la costruzione della diga, spesa prevista 75 miliardi delle vecchie lire. Da un'interrogazione fatta a maggio del 2008 risulta che l'appalto aveva raggiunto la cifra complessiva di circa 1000 miliardi di vecchie lire, quasi 500 milioni di euro. Bellezza. E poi dico che in l'economia in Calabria non gira. Bellezza. Ecco, questo purtroppo è una chiara testimonianza di quelle che è la gestione del bene pubblico. Ovviamente gli intrighi, i giochetti, no? Per fare cassa delle aziende in concomitanza con chi ci governa, no? Agli alti piani, le conseguenze ricadono sulle nostre tasche, ma soprattutto sulla salute, perché ritornando, non lo so, prima di ritornare alla diga dell'Alaco, vogliamo fare uno stacco, magari ci prendiamo 5 minuti di pausa e continuiamo dopo. Get a blister on your thumb. We got to my mama, she got a sticker name, a cameraman. Look at her, so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Tornando, diciamo, alle dighe mai costruite. Scusate, prima di arrivare alle dighe, però io voglio notare che oggi alla regia c'è il nostro caro Gaetano, che è in sostituzione del Beppe Lounge, che ormai è una sketch, è un disc jockey. Proprio abbiamo tra le mani una cosa. E detto questo, mi viene anche da ricordare che siamo su Fuori Andare a su Banda Armata, che è fuori della trasmissione della radio, Fuori Onda Radio, la radio più bella che sia mai esistita nell'Università della Calabria. Applausi. E che andiamo in onda ogni mercoledì. Vorremmo andare in onda mercoledì alle 6:30, poi un po' di ritardo, ci sta, però siamo tranquilli. E in replica su Ciroma il venerdì alle 5 e su Trenizia di Fase il martedì alle 20. Salutiamo tutti, anche gli ascoltatori del futuro. Tornando a questo, ho interrotto Regine, scusate, i nostri cari ascoltatori mi scuseranno, spero, per questo. No, non nessun problema, Samuele. Torniamo alle dighe mai costruite. A quanto pare, però, la LAC è stata costruita. È costata solo una settantina di milioni di solo, sottolineo, con, diciamo, tanti problemi sulla costruzione, nuove sospensioni dei lavori, diciamo, con sei varianti tra l'85 e l'86. Comunque, a quanto pare, i problemi più grossi si sono avviati nel 2006, quando la Sorical ha preso sopravvento e è venuto la geniale idea di ampliare l'impianto. Da allora inizia il ping pong di palleggio tra l'azienda e, diciamo, i comuni. Però negli anni, diciamo, c'è stato anche chi ha sollevato forti dubbi sulle modalità di smaltimento delle acque provenienti dal lavaggio dei filtri e dalla disidratazione dei fanghi. Ecco, ce l'ho fatta. C'è stato un'inchiesta che ha fatto il coordinamento delle serre per la difesa dell'acqua, Bruno Arcuri. A gran voce hanno denunciato, diciamo, dai test effettuati, le quantità di ferro e magnese che sono al di sopra della norma. Quindi è stato riscontrato anche un forte inquinamento batteriologico dovuto a escrementi di animali insieme a sostanze derivanti dalla decomposizione delle piante sommerse. Quindi le persone si bevevano l'acqua con tutti questi problemi, senza che nessuno se ne preoccupasse. Ecco dove interviene la società mista, in cui queste sono le cose che il privato ti regala, giustamente, no? Come gestore, visto che lui è responsabile, ecco, questi sono gli effetti del privato. Sì, sentiamo dire che il privato è efficiente, non fa niente che paghiamo un po' in più, ma è efficiente. Questa è l'efficienza. Se l'efficienza si misura con la nostra salute, vuol dire che viviamo in merda, e l'efficienza è una cosa bella, no? Evviva l'efficienza, allora. Quindi la lotta contro la realizzazione dell'invaso risale negli lontani anni 90. A quanto pare un professore dell'Università di Messina Bellomon, non so se l'accento è giusto, aveva fatto una ricerca dove, nella quale si evinceva che quei terreni, in considerazione della grossa quantità di ferro contenuta, non potevano essere adibiti ad ospitare un invaso d'acqua. Quindi diciamo che prima di arrivare a costruire c'era qualcuno che si oppose tecnicamente alla realizzazione di questo acquedotto, e nonostante questo i grossi interessi hanno deciso e hanno realizzato l'impianto. Tanto l'acqua sporca ce la beviamo noi, no? Ci piace bere l'acqua sporca. Diciamo che nel luogo sono presenti gli attivisti dell'associazione Briganti, che pongono ovviamente delle perplessità riguardanti la fretta con la quale si è proceduta alla chiusura dei pozzi che alimentavano gli antichi acquedotti, e poi il fatto che si sia scelto di realizzare l'invasione in un'area mai bonificata. In questa zona erano situate, ricordiamo, le antiche cave borboniche di ferro. Quindi la cosa è palese, no? Quindi gli interessi c'erano. C'è da dire che l'associazione Briganti, nella persona di Sergio Gambino, ha ricevuto anche delle intimidazioni rispetto alle battaglie che facevano per appunto chiudere questa diga. Gli è stato recapitato una cartuccia di Lupara a casa, quindi per far capire che anche le poste funzionano. L'acqua non è buona, ma le poste funzionano benissimo. Ecco, io non la voglio fare tanta lunga, però viene chiamato a responsabilità il sindaco Bruno Rosi, che nonostante abbia partecipato alla visita, diciamo, della diga, poco tempo fa ha accordato con Sorical e ha firmato una delibera con cui, in cambio di un misero sconto sul debito, ha regalato a Sorical la rinuncia da parte del comune a tutte le cause legali pendenti con la società delle risorse idriche calabresi, che oggi è finita nell'occhio del ciclone. Sappiamo che la Sorical, diciamo, non se la sta passando bene, no? Sì, anche lei beve amaro. Vabbè, ma tutto torna poi alla fine, no? Sì, basti vedere che sei stato proprio una sorta di minaccia, insomma, no? Tu mi abboni il debito che io ti devo pagare e io non ti faccio causa, insomma, no? Sì, tu mi fai un favore a me e io faccio un favore a te, così funziona. Comunque, I cittadini bevono merda. Appunto. Allora, speriamo che questa storia non si infanghi come si fa al solito, no? Letteralmente. Ci vuole. Comunque, ricordiamo che il 2 giugno a Roma c'è una grande manifestazione per l'acqua pubblica, appunto sulla scia del referendum, e invitiamo tutti a partecipare. Dopo di questo io manderei un'altra canzone e vi saluto. Dimmi perché quelli che c'hanno il potere sono gli stessi che il fuoco alimentano. Dimmi dov'è la libertà, resta solo una parola che si inventano. Non ci arrenderemo mai, non ci fermeremo mai, siamo ribelli for life. Siamo partiti da lontano ed arrivati fin qui, la nostra voce non è quella che racconta il TG, la telecamera riprende, non è Real TV, il giornalista fede solo in Mr. B. So che la tua democrazia funziona un po' così, è una finzione in bianco e nero come un vecchio film, sotto controllo permanente, nome microchip, ci manda la police con elicotteri e G. Ora devi decidere da che parte stai, accanto a te io sarò primo, e non è tempo di fermarsi mai, decidono il nostro destino. Dimmi com'è che più parli parli e ti ribelli e più loro non ti sentono. Dimmi perché quelli che c'hanno il potere sono gli stessi che il fuoco alimentano. Dimmi dov'è la libertà, basta solo una parola che si inventano. Non ci arrenderemo mai, non ci fermeremo mai. Siamo ribelli for life. Sono vampiri che si muovono di notte e poi vogliono il sangue per fermare le rivolte e poi per loro è meglio se la gente se ne fotte e pensa solo a sé. E anche se cercano di chiuderci le bocche, loro non possono fermare queste lotte. Ma giù in strada le bandiere sono troppe, più forti dei manganelli e le loro botte. Ora devi decidere da che parte stai, accanto a te io sarò il primo. E non è tempo di fermarsi mai, decidono il nostro destino. Dimmi com'è, che più parli parli e ti ribelli e più loro non ti sentono. Dimmi perché, quelli che c'hanno il potere sono gli stessi che il fuoco alimentano. Dimmi dov'è, la libertà resta solo una parola che si inventano. Non ci arrenderemo mai, non ci fermeremo mai. Siamo ribelli for life. Siamo ribelli dall'America al Canada, Roma, Pechino, passando da Porto Alegre, briganti, fratelli a Rio de Janeiro, Olanda, Berlino e San Salvador. Per chi non crede nel mercato globale, chiama la vita perché sa quanto vale. Più delle merci, più del capitale, più dei brevetti di una multinazionale, più delle bombe, più di un intero arsenale. Si fotta il loro scudo spaziale. Più passa il tempo e più non lo puoi fermare, come neanche uno scoglio può arginare il mare. Dimmi com'è, che più parli parli e ti ribelli e più loro non ti sentono. Dimmi perché, quelli che c'hanno il potere sono gli stessi che il fuoco alimentano. Dimmi dov'è, la libertà resta solo una parola che si inventano. Non ci arrenderemo mai, non ci fermeremo mai. Siamo ribelli for life. A tempo pieno non chiamatemi precario. Il mio ferro è caldo ma non sta nella fondina. Sta coi pianti dei migranti di Rosarno in prima linea. La crisi di astinenza è la sola che subisco. Se ora sono nero non è solo per il fisco. Colpisco a pugno chiuso sull'esempio di Zapata. La colomba della pace l'ho mangiata. Leggo i miei diritti scritti solo sulla carta. E a difenderli siamo in 300. Non seguo religioni, non credo a falsi miti, ma mando segnali in cielo in questa Gotham City. La realtà che vivo è un passato che si fonde. Sarò nessuno se mai più toccherò le sacre sponde. Stretto in una morsa, non freno la mia corsa. La mia libertà non vale un punto percentuale in borsa. In this world that we know, in a better society we want to grow. Freedom is much more than a simple word. I tell you, revolution at home. Ecco, parlavamo prima di soldi che sono avvenuti, di 78, di cose strane, sì, come dire, in base a quello che ci insegna la nostra storia. Noi sappiamo che noi siamo nell'Università della Calabria, che è stata costruita con un piano, una serie di soldi mandati in Calabria per cercare di risanarla e riportarla ai livelli del nord. Sta di fatto che questo bell'intento in realtà nascondeva la volontà di far crescere tante, come dire, borghesie mafiose, borghesie, burocrazie qua e là, tanti assessorati, tanti, come dire, tutta una serie di correntine, correntelle, correntacci che hanno in pratica spazzato via quello che è la possibilità di riscatto sociale della nostra terra. Basti pensare ai soldi spesi per il porto di Gioia Tauro, che erano soldi che comprendevano pure un grande piano per costruire delle acciaierie lì vicino, cose che non sono mai state viste nella zona. Tant'è vero che poi Regina, a un certo punto, che non se la tengono, si incazzarono e rimandarono indietro la prima pietra, che era venuto direttamente Andreotti a porre la prima pietra, e allora loro giustamente non se la sono tenuta, l'hanno presa e l'hanno rimandata indietro. Il punto è che quindi abbiamo una serie di di, come dire, una classe dirigente, un comitato d'affari che unisce trasversalmente il politico di destra e di sinistra e unisce trasversalmente la casta, come dire, dei politici, anche se questo nome casta un po' sa troppo di travagliata, e unisce questi, i politici, anche a tutto il sistema, come dire, economico, un po', come dire, capitemi quando parlo di economia anche, no? E per questo è importante anche che in Calabria si torni a mobilitarci, si torni a pretendere il, come dire, pretendere il rispetto dei nostri diritti. Perché è importante, soprattutto in una regione come la nostra, cercare di mantenere alta la testa e non abbassarla in base a nessun tipo di sopruso. Per questo eravamo il 26 a Gallico, a fianco al Cartella, che insieme a noi sta cercando di costruire questo soggetto, la rete in difesa del territorio, che cerca di sostanzialmente uscire dalla crisi a testa alta, cercare di uscire insieme a testa alta dalla crisi, cosa che in Calabria è più unico che raro, è quella goccia di splendore di cui De André cantava, insomma. Per questo noi abbiamo, insieme a altre associazioni, stiamo lanciando una manifestazione regionale del 16 giugno a Cariati, e di seguito vi leggiamo il comunicato stampa dei compagni delle Lampare di Cariati. Il comunicato: i comitati e le associazioni del territorio, Movimento delle Lampare Cariati, Movimento Antidiscariche di Scalageli, Comitato in difesa di Pucita e del territorio di Rossano, hanno indetto una conferenza lunedì 28 maggio alle ore 18:30 presso la sala consiliare del comune di Cariati, durante la quale è stata lanciata la manifestazione regionale in difesa del territorio, che si terrà il 16 giugno alle 17:30 a Cariati. Fra i presenti, oltre agli organi di stampa, rappresentanti di comitati e delle associazioni locali, il sindaco di Cariati, in rappresentanza anche del tavolo permanente contro la discarica di Scalacelli, costituito il 23 febbraio 2012 presso la sala consiliare di Cariati, a cui prendono parte anche altri sindaci e i movimenti territoriali. Il Movimento dell'Acqua, Terra, Aria e Libertà di Crotone, in rappresentanza del comitato organizzatore della manifestazione del 12 novembre 2011 di Crotone, per la fine del commissariamento all'emergenza rifiuti. Nel corso della conferenza stampa è stato distribuito il materiale informativo alla piattaforma politica della manifestazione, che spazia su tre temi cruciali: sanità, rifiuti, lavoro. Gli interventi hanno sottolineato alcuni aspetti fondamentali della manifestazione. Si tratta infatti di un'altra tappa del percorso del tavolo permanente contro le discariche di Scalacelli, che ha visto lavorare i movimenti territoriali insieme agli amministratori del comprensorio, con risultato che attualmente la discarica di Scalacelli è ferma per le numerose irregolarità fatte presenti, ed è possibile oggi avanzare la richiesta della revoca dell'autorizzazione alla stessa. Nello stesso tempo però si tratta di una manifestazione regionale che vuole lanciare un messaggio chiaro al commissario per l'emergenza rifiuti, il quale scandalosamente ha già riaperto la discarica di Alli, si attrezzi a superare la prossima emergenza senza aprire nuove discariche, in quanto noi non lo permetteremo. L'emergenza ha rappresentato infatti in questi anni il pretesto di nuove devastazioni, ma chi promuove la manifestazione non dice solo no, anzi intendiamo infatti promuovere una campagna in difesa e di promozione del nostro territorio, anche per incidere sulla drammaticità della crisi e l'occupazione del Sud. Infine, a proposito del piano di rientro, drammatici fatti di queste settimane ci hanno dimostrato, prima ancora che andasse completamente a regime, quali saranno le orrende conseguenze del piano di rientro, un piano assurdo che va assolutamente fermato. Questo comunicato di lancio della conferenza stampa racchiude un po' due cose importanti, secondo me, che fanno parte del nostro percorso, della cosa che stiamo cercando di costruire insieme. Il primo è la questione del tavolo permanente, che significa dire che chiunque avverta come noi determinati problemi, che non sono semplicemente di salute pubblica, e non ne dire poco a salute pubblica, dato che abbiamo alti tassi, i tassi di incidenza tumorale, come di altri tassi di